Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Rwanda, Rwanda zinza, Rwanda, Rwanda zinza. Con Laban, l'interprete, avanziamo sulla collina verso Kimo, attraverso orti, campi di mais, camminando spesso all'ombra dei grandi banani. Il sentiero sale dolcemente in un paesaggio armonioso dove tutto sembra poter crescere facilmente. Terra fertile, sole, ma anche pioggia in questo paesaggio che sembra baciato dalla natura. A un paio di chilometri di sentiero, dopo aver lasciato la macchina ai bordi della statale, a mezz'ora da Kigali, troviamo la casa di Westin. Una costruzione semplice, mattonella in tonaco rosa, relativamente grande secondo i criteri locali. Una tenda di stoffa separa l'orto dall'atrio. Westin non c'è ancora, la sorella 19enne ci fa accomodare. Laban le parla e ci racconta che lei aveva 3 anni quando fu buttata in un pozzo con altri 5 bimbi. Fu l'unica sopravvissuta. La 19enne abbassa lo sguardo, la sua voce è quella di una bimba. Arriva anche Westin, la sorella maggiore, ha 30 anni e ha accettato di raccontarci. Buongiorno. Raccontare è un esercizio doloroso e per tantissima gente ancora impossibile. Sono passati 16 anni, ma è come se fosse successo ieri in questo paese dove il passato non passa. In francese sa dire solo qualche parola. Come molti nelle campagne, Westin parla solo la sua lingua, il Kinyarwanda. Racconta delle difficoltà di trovare un lavoro. Oggi vive con la sorella nella casa in cui è cresciuta con i genitori, fratelli e sorelle. Il cielo si fa scuro e scura anche la stanza nella quale ci troviamo. Non c'è luce. La pioggia batte sul tetto in lamiera. Ho perso i miei genitori nel genocidio. Li ho perduti e sento che ne avrei tanto bisogno. Anche ora mi mancano. Ho assunto ancora molto giovane, avevo 16 anni, la responsabilità dei genitori. Tutto è cominciato il 6 aprile, quando è stato abbattuto l'aereo del presidente. Stavamo cenando, c'era tutta la famiglia, e i miei genitori e i fratelli, e abbiamo visto da qui l'aereo che precipitava. La mattina successiva, il 7 aprile, mio padre ci ha detto: «Figli miei, da oggi tutto rischia di cambiare nel nostro villaggio». Alla sera del 7 siamo saliti tutti fino alla chiesa per cercare rifugio lì. Abbiamo trascorso la notte lì e l'indomani i miliziani in Teramwe sono entrati nella chiesa e hanno cominciato a separare gli Hutu dai Tutsi. Abbiamo capito subito che c'era un grande pericolo, che le parole di odio potevano sfociare in azioni. Abbiamo approfittato della confusione per uscire dalla chiesa e ritornare qui a casa, dove era rimasto mio padre. Ma 10 minuti dopo il nostro arrivo, i miliziani hanno accerchiato la casa. Poi sono entrati in casa, hanno preso mio padre, si sono fatti consegnare tutte le cose di valore e sono usciti con lui. Lo hanno massacrato a colpi di macete qui nel cortile. Eravamo vicini, abbiamo visto tutto. Eravamo dietro la stalla. I miliziani sono partiti e noi allora siamo scappati. Ma i miliziani hanno visto mia sorella maggiore, l'hanno presa e l'hanno colpita col macete, ma non è morta subito. Westin chiude gli occhi, le manca il fiato. Laban, l'interprete, ci chiede di attendere un po'. La sorella 19enne ha lo sguardo fisso sul suolo. Le spieghiamo perché le facciamo raccontare tutto questo. È importante che queste cose si sappiano. Siamo scappati nei boschi, c'era una caccia all'uomo in tutti i villaggi. Eravamo 12 fratelli, 9 sono stati uccisi. Io ero la più grande dei 3 che sono riusciti a scappare, ma non sapevo cosa fare. Ho lasciato i 2 bambini da un'altra famiglia e sono scappata per andare dalla mia madrina, che era sposata a un Hutu. Sulla strada però sono incappata in un gruppo di Interamoe. Uno mi ha detto: ti cercavamo, finalmente ti abbiamo trovato. Sono scappata, ho corso come una matta nel bosco e non sono riusciti a prendermi. Dopo un po' ho sentito che avevano lasciato perdere e sono partiti. Vestin ci racconta con precisione la sua fuga, la consapevolezza di aver abbandonato i fratellini per salvare la propria vita, un secondo posto di blocco dove un miliziano che la conosceva non se l'è sentita di ammazzarla, una donna Hutu che l'ha protetta ma solo per una notte, temeva che i vicini la denunciassero, poi di nuovo la fuga. Sono riuscita a raggiungere la casa della mia madrina. Lei aveva appena partorito ma mi ha accolta. I vicini che mi avevano visto però le hanno detto: sappiamo benissimo chi è, tutta la sua famiglia è stata uccisa e ora viene qui a nascondersi, e hanno chiamato gli Interamoe. Il marito della mia madrina è riuscito a convincerli a non uccidermi. Ha dato loro dei soldi e loro hanno accettato. Ma lui mi ha detto che dovevo andarmene perché sarebbero tornati. Così sono scappata e mi sono rifugiata tra le piante di papiro dove ho trascorso tutti i mesi della guerra. Con i papiri mi sono creata una stuoia che ogni tanto però sprofondava nell'acqua e dovevo ricostruirne un'altra. Quando sentivo che non c'era pericolo, andavo nei campi lì vicino a cercare qualcosa da mangiare. A Kimo, come in quasi tutti i villaggi della Ruanda, i responsabili del genocidio non hanno risparmiato nessuno. Il massacro, iniziato nell'aprile del 94, si è protratto per 3 mesi. Nelle case, strade, scuole, chiese. Sventrati a bastonate, fatti a pezzi, col macete, fucilati, bruciati. Massacrati uomini, donne, bimbi, indistintamente. 3/4 dei Tutsi sono stati eliminati, quasi 1 milione di morti, tra cui anche degli Hutu cosiddetti moderati, quanti non volevano partecipare alla carneficina. La vittoria dell'FPR, dell'attuale presidente Paul Kagame, mise fine allo sterminio. I tribunali popolari, Gacaca, hanno giudicato i responsabili locali, lasciando alla giustizia ordinaria o al Tribunale Internazionale di Arusha i processi per i grandi carnefici, quelli che il genocidio lo pensarono e orchestrarono su scala nazionale. Con Laban e la capo villaggio, Florence Mukasanga, camminiamo verso la casa di Gofroi. Vive a 1 chilometro circa da Vestin. Lui è uno dei carnefici, uno dei miliziani degli Interamoe. Vittime e carnefici, ormai usciti dalle prigioni durissime, la pena di morte è stata abolita, sono vicini di casa. Gofroi è oramai anziano, longilineo, molto magro, le guance incavate, ha un piccolo appezzamento di terra e vive di quello. Sono stato in prigione 8 anni e 6 mesi. Sono stato accusato di aver partecipato al genocidio. Facevo parte di una banda che ha partecipato al genocidio. Sì, dans ce même village. Sì, in questo villaggio. Siamo stati mobilitati e organizzati dal potere. Ci hanno detto di partecipare alle milizie e di andare a uccidere. C'était qui le pouvoir? C'était le gouvernement? C'était au niveau local? C'était qui disait ça? Sì, all'inizio è stato il governo che ha dato ordine alle autorità locali. Io ho sentito le autorità locali. Loro mi hanno detto di andare a uccidere. E hanno detto che era nostro dovere dopo l'abbattimento dell'aereo del presidente. Dicevano che erano stati i Tutsi e che bisognava eliminarli tutti. Ma gli chiediamo ancora, pensava davvero che Tutsi e Hutu fossero così diversi, che Tutsi incarnavano il male? Mi hanno incitato a uccidere e mi sentivo minacciato. Se non avessi partecipato all'Interahamwe, la mia vita sarebbe stata in pericolo. Ma non penso che siamo diversi. Avevo dei vicini Tutsi, andavamo d'accordo e ancora oggi vivo accanto a dei Tutsi. Le parole di Gofroa sono ascoltate attentamente dalla capa del villaggio. In questo paese il controllo sociale è tradizionalmente molto forte. Villaggio, distretto, provincia, fino al governo. Ogni stanza ne controlla un'altra, in modo stretto. Ci saluta dicendoci che queste cose non succederanno mai più in Ruanda e spera neanche nel resto del mondo.